Se un'operazione contiene l'operatore AND, cioè E, è vera solo se entrambe le condizioni sono vere. Sapendo che la condizione A è vera e la condizione B è falsa, AND B sarà vero o falso?